e frutto completo della sua vita sacramentale. Volume 11, febbraio 24, 1917. Avendo fatto la comunione, mi tenevo stretto al mio cuore il mio dolce Gesù e dicevo, vita mia, quanto vorrei fare ciò che facesti tu stesso nel riceverti sacramentato, affinché tu potessi trovare in me i tuoi stessi contenti, le tue stesse preghiere, le tue riparazioni. Ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto, figlia mia, in questo breve giro dell'ostia io racchiudo tutto, e perciò volli ricevere me stesso, per fare atti compiuti che glorificavano il Padre degnamente, che le creature ricevevano un Dio, e davo alle creature frutto completo della mia vita sacramentale, altrimenti sarebbe stato incompleto per la gloria del Padre e per il bene delle creature. E perciò in ogni ostia ci sono le mie preghiere, i ringraziamenti, e tutto il resto che ci voleva per glorificare il Padre e che la creatura doveva farmi. Sicché, se la creatura manca, io in ogni ostia continuo il mio lavorio, come se per ciascuna anima ricevessi un'altra volta me stesso. Onde l'anima deve trasformarsi in me e fare una sola cosa con me e far sua la mia vita, le mie preghiere, i miei gemiti d'amore, le mie pene, i miei palpiti di fuoco, che vorrei bruciare e non trovo chi si lasci in preda alle mie fiamme. Ed io in questa ostia rinasco, vivo e muoio e mi consumo, e non trovo chi si consuma per me, e se l'anima ripete ciò che faccio io, mi sento ripetere, come se un'altra volta avessi ricevuto me stesso, e vi trovo gloria completa, contenti divini, sfoghi d'amore che mi pareggiano, e do grazia all'anima di consumarsi della mia stessa consumazione. La sorte sacramentale di Gesù è più dura ancora della sua sorte infantile. Volume 12 25 dicembre, 1920. Trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di me stessa, insieme con Gesù. Facevo una lunga via ed in questo cammino ora camminavo con Gesù, ora mi trovavo con la mamma regina, se mi scompariva Gesù, mi trovavo la mamma e se scompariva la mamma, mi trovavo Gesù. In questo cammino molte cose mi hanno detto. Gesù e la mamma erano molto affabili, con una dolcezza che incantava, io ho dimenticato tutto, le mie amarezze, anche la loro stessa privazione, credevo di non più perderli. Oh, com'è facile dimenticare il male davanti al bene. Ora, all'ultimo del cammino, la celeste mamma mi ha preso in braccio, io ero piccina, piccina e mi ha detto, figlia mia, voglio corroborarti in tutto. E pareva che con la sua santa mano mi segnava la fronte, come se scrivesse e vi mettesse un suggello, poi, come se scrivesse negli occhi, nella bocca, nel cuore, nelle mani e piedi e poi vi metteva il suggello. Io volevo vedere ciò che lei mi scriveva, ma io non sapevo leggere quello scritto, solo alla bocca ho visto due lettere che dicevano, annientamento di ogni gusto. Ed io subito ho detto, grazie, oh mamma. Mi togli ogni gusto che non sia Gesù. Volevo capire altro, ma la mamma mi ha detto, non è necessario che lo sappia, abbi fiducia in me, ti ho fatto ciò che ci voleva. Mi ha benedetto ed è scomparsa, ed mi son trovata in me stessa. Onde dopo è ritornato il mio dolce Gesù, era tenero bambinello, vagiva, piangeva e tremava per il freddo. Si è gettato nelle mie braccia per essere riscaldato. Io me l'ho stretto forte forte e, secondo il mio solito, mi fondevo nel suo volere per trovare i pensieri di tutti insieme coi miei e circon. Dare il tremante Gesù con le adorazioni di tutte le intelligenze create, gli sguardi di tutti, per far guardare Gesù e distrarlo dal pianto, le bocche, le parole, le voci di tutte le creature, affinché tutte lo baciassero per non farlo vagire e col loro fiato lo riscaldassero. Mentre ciò facevo, l'infante Gesù non più vagiva, ha cessato dal piangere, come riscaldato, mi ha detto. Figlia mia, hai visto che cosa mi faceva tremare, piangere e vagire? L'abbandono delle creature. Tu me le hai messe tutte intorno, mi sono sentito guardato, baciato da tutti ed io mi sono quietato dal pianto. Ma sappi però che la mia sorte sacramentale è più dura ancora della mia sorte infantile. La grotta, sebbene fredda, ma era spaziosa, aveva un'aria da respirare, l'ostia è anche fredda, è tanto piccola che quasi mi manca l'aria. Nella grotta ebbi per letto una mangiatoia con un poco di fieno per letto, nella mia vita sacramentale anche il fieno mi manca e per letto non ho altro che metalli duri e gelati. Nella grotta ci avevo la mia cara mamma che spesso mi prendeva con le sue purissime mani e mi copriva con baci infuocati per riscaldarmi, mi quietava il pianto, mi nutriva col suo latte dolcissimo. Tutto al contrario nella mia vita sacramentale, non ci ho una mamma, se mi prendono, sento il tocco di mani indegne, mani che danno di terra e di letame, oh, come ne sento la puzza, più del letame che sentivo nella grotta. Invece di coprirmi con baci, mi toccano con atti irriverenti ed invece di latte mi danno il fiele dei sacrilegi, della noncuranza, delle freddezze. Nella grotta San Giuseppe non mi fece mancare una lanternina di luce nella notte, qui nel sacramento, quante volte resto al buio anche la notte? Oh, com'è più dolorosa la mia sorte sacramentale! Quante lacrime nascoste, non viste da nessuno! Quanti vagiti non ascoltati! Se ti ha mosso a pietà la mia sorte infantile, molto ti deve muovere a pietà la mia sorte sacramentale. Chi vive nella divina volontà, coi suoi atti supplirà alla moltiplicazione della vita sacramentale di Gesù. Volume 14, marzo 24, 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto: «Figlia mia, come l'anima emette i suoi atti nel mio volere, così moltiplica la mia vita, sicché se fa 10 atti nella mia volontà, 10 volte mi moltiplica, se ne fa 20, 100, 1000 e più ancora, tante volte di più resto moltiplicato». Succede come nella consacrazione sacramentale, quante ostie mettono, tante volte di più resto moltiplicato. La differenza che c'è, è che nella consacrazione sacramentale ho bisogno delle ostie per moltiplicarmi e del sacerdote che mi consacri, nella mia volontà, per restare moltiplicato ho bisogno degli atti della creatura, ove più che ostia viva, non morta come quelle ostie prima di consacrarmi, la mia volontà mi consacra e mi chiude nell'atto della creatura, ed io resto moltiplicato ad ogni loro atto fatto nella mia volontà. Perciò il mio amore tiene il suo sfogo completo con le anime che fanno la mia volontà e vivono nel mio volere, sono loro sempre quelle che suppliscono non solo a tutti gli atti che mi dovrebbero le creature, ma alla stessa mia vita sacramentale. Quante volte resta inceppata la mia vita sacramentale nelle poche ostie in cui io resto consacrato, perché pochi sono i comunicandi. Altre volte mancano sacerdoti che mi consacrino, e la mia vita sacramentale non solo non resta moltiplicata quanto vorrei, ma resta senza esistenza. Oh, come il mio amore ne soffre! Vorrei moltiplicare la mia vita tutti i giorni in tante ostie per quante creature esistono, per darmi a loro, ma invano aspetto, la mia volontà resta senza effetto. Ma di ciò che ho deciso, tutto avrà compimento, perciò prendo un'altra. Piega e mi moltiplico in ogni atto vivo della creatura fatto nel mio volere, per farmi supplire alla moltiplicazione delle vite sacramentali. Ah, sì, solo le anime che vivono nel mio volere suppliranno a tutte le comunioni che non fanno le creature, a tutte le consacrazioni che non si fanno dai sacerdoti, in loro troverò tutto, anche la stessa moltiplicazione della mia vita sacramentale. Perciò ti ripeto che la tua missione è grande, a missione più alta, più nobile, sublime e divina non potrei sceglierti. Non c'è cosa che non accentrerò in te, anche la moltiplicazione della mia vita. farò dei nuovi prodigi di grazia non mai fatti finora. Perciò ti prego, sii attenta, sii mi fedele, fa che la mia volontà abbia vita sempre in te, ed io nel mio stesso volere in te, troverò tutta completata l'opera della creazione, coi pieni miei diritti e tutto ciò che voglio. Dolori della vita sacramentale di Gesù e le grazie con cui ci previene per riceverlo. Volume 15 o marzo 27, 1923. Avendo fatto la comunione, il mio dolce Gesù si è fatto vedere, ed io appena visto mi son gettata ai suoi piedi per baciarli e stringermi tutta a lui. E Gesù, stendendomi la mano, mi ha detto, figlia mia, vieni fra le mie braccia e fin dentro il mio cuore, mi son coperto dei veli eucaristici per non incutere timore, sono sceso nell'abisso più profondo delle umiliazioni in questo sacramento per innalzare la creatura fino a me, immedesimandola tanto in me da formare una sol cosa con me, col far scorrere il mio sangue sacramentale nelle sue vene, costituirmi vita del suo palpito, del suo pensiero e di tutto il suo essere. Il mio amore mi divorava e voleva divorare la creatura nelle mie fiamme, per farla rinascere un altro. Me. Perciò, volli nascondermi sotto questi veli eucaristici e, così nascosto, entrare in essa per formare questa trasformazione della creatura in me, ma per succedere tre questa trasformazione, ci volevano le disposizioni da parte delle creature, ed il mio amore, dando in eccesso, come istituiva il sacramento eucaristico, così metteva fuori da dentro la mia divinità, altre grazie, doni, favori, luce a bene dell'uomo, per renderlo degno di potermi ricevere, potrei dire che mise fuori tanto bene da sorpassare i doni della creazione, volli dargli prima le grazie per ricevermi e poi darmi, per dargli il vero frutto della mia vita sacramentale. Ma per prevenire con questi doni le anime, ci vuole un po' di vuoti quattro di loro stesse, di odio alla colpa, di desiderio di ricevermi, questi doni non scendono nel marciume, nel fango. Quindi, senza dei miei doni non hanno le vere disposizioni per ricevermi, ed io scendendo in loro non trovo il vuoto per comunicare la mia vita, sono come morto per loro, e loro morte per me, io brucio e loro non sentono le mie fiamme, sono luce e loro restano più accecate. Ahimè, quanti dolori nella mia vita sacramentale! Molti, per mancanza di disposizioni, non provando nulla di bene nel ricevermi, giungono a nausearmi, e se continuano a ricevermi è per formare il mio continuato calvario e la loro eterna condanna. Se non è l'amore che li spinge a ricevermi, è un affronto di più che mi fanno, è una colpa di più che aggiungono sulle anime loro. Perciò, prega e ripara per i tanti abusi e sacrilegi che si fanno nel ricevermi sacramentato. Quando il fiat voluntas tua avrà il suo compimento come in cielo così in terra, allora verrà il pieno compimento della seconda parte del Pater Noster. Se non opero il prodigio di far vivere un'anima nella mia suprema volontà, il fiat voluntas tua come in cielo sulla terra non avrà luogo nelle umane generazioni. Volume 15, maggio 2, 1923. La mia povera mente me la sentivo come sperduta nell'immensità dell'eterno volere, ed il mio dolce Gesù, ritornando al suo dire sulla santissima volontà di Dio mi ha detto. Figlia mia, oh, come armonizzano bene i tuoi atti fatti nel mio volere. Armonizzano coi miei, con quelli della mia diletta mamma, e l'uno scomparisce nell'altro e formano uno solo. Sembra il cielo in terra e la terra in cielo, è l'eco dell'uno nei tre e dei tre in uno della Trinità sacrosanta. Oh, come risuona dolce al nostro udito, come ci rapisce, ma tanto, da rapire la nostra volontà dal cielo in terra. E quando il mio fiat voluntas tua avrà il suo compimento come in cielo così in terra, Allora verrà il pieno compimento della seconda parte del Paternoster, cioè, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io dicevo, Padre nostro, a nome di tutti, tre specie di pane ogni giorno vi chiedo, il pane della tua volontà, anzi, più che pane, perché se il pane è necessario due o tre volte al giorno, invece questo è necessario ogni momento, in tutte le circostanze, anzi deve essere non solo pane, ma come aria balsamica che porta la vita, la circolazione della vita divina nella creatura. Padre, se non è dato questo pane della tua volontà, non potrò mai ricevere tutti i frutti della mia vita sacramentale, che è il secondo pane che tutti i giorni ti chiediamo. Oh, come si trova male la mia vita sacramentale perché il pane della tua volontà non li alimenta, anzi trova il pane corrotto della volontà umana. Oh, come mi fa schifo! Come lo rifuggo! E sebbene vado a loro, ma se i frutti, i beni, gli effetti, la santità, non posso darli, perché non trovo il pane nostro, e se qualche cosa do è in piccola proporzione, a seconda delle loro disposizioni, ma non tutti i beni che contengo, e la mia vita sacramentale aspetta paziente che l'uomo prenda il pane della volontà suprema per poter dare tutto il bene della mia vita sacramentale. Vedi dunque che il sacramento dell'Eucaristia, non solo, ma tutti i sacramenti lasciati alla mia Chiesa ed istituiti da me, daranno tutti i frutti che contengono e pieno compimento quando il pane nostro, cioè la volontà di Dio, si farà come in cielo così in terra. Dopo, chiedevo il terzo pane, cioè il materiale. Come potevo dire, dacci oggi il nostro pane? In vista che l'uomo, dovendo fare la nostra volontà, ciò che era nostro era suo, ed il Padre non doveva dare più il pane della sua volontà, il pane della mia vita sacramentale, il pane giornaliero della vita naturale a figli illegittimi, usurpatori, cattivi, ma ai figli legittimi, buoni, che terranno in comune i beni del Padre. Perciò dicevo, dacci il nostro pane. Allora mangeranno il pane benedetto, tutto le sorriderà intorno, la terra ed il cielo porterà l'impronta dell'armonia del loro creatore. Onde, dopo, soggiunsi, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, sicché, anche la carità sarà perfetta, allora sarà perfetto il perdono. Avrà l'impronta dell'eroismo, come lo ebbi io sulla croce, quando l'uomo avrà mangiato il pane della mia volontà come lo mangiava la mia umanità, allora le virtù saranno assorbite nella mia volontà e riceveranno l'impronta del vero eroismo e di virtù divine, saranno come tanti fiumicelli che sbucheranno dal seno del gran mare della mia volontà. E se soggiunsi? E non ci indurre in tentazione. Come mai Iddio sette poteva indurre in tentazione? Era perché l'uomo è sempre uomo, libero da otto se stesso, perché io non gli tolgo mai i diritti che nel crearlo gli ho dato, e lui, spaventato e temendo di sé, grida tacitamente, prega senza esprimersi in parole, dacci il pane della tua volontà, affinché possiamo respingere tutte le tentazioni, ed in virtù di questo pane liberaci da ogni male. Così sia. Vedi, dunque, che tutti i beni dell'uomo ritrovano il loro rannodamento, il vincolo stretto del facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, la validità ad ogni loro atto, la restituzione dei beni perduti, la firma ed assicurazione che gli viene ridata alla loro perduta felicità terrestre e celeste. Onde, era tanto necessario che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra, che io non ebbi altro interesse, né insegnai altra preghiera, se non il Pater Noster, e la Chiesa, fedele esecutrice e depositaria dei miei insegnamenti l'ha sempre in bocca ed in ogni circostanza. E tutti, dotti ed ignoranti, piccoli e grandi, sacerdoti e secolari.